giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cresce l'occupazione in regione, anche i contratti a tempo indeterminato, ma il futuro è senza paracadute per i precari, che sono quasi la metà dei nuovi assunti. L'allarme della CGIL. Vertenza autisti del trasporto pubblico locale, carenza di personale, e alla società Arriva di Udine anche il dimezzamento del premio di risultato 2023. I sindacati tentano l'ultima carta della mediazione del perfetto, mentre a Trieste è già confermata la decisione dello sciopero. Migranti all'Addiaccio, a Gorizia, la Casa Rossa in stazione, nella galleria Bombi, arrivano dalla rotta balcanica ma anche da Trieste. L'appello del sindaco Ziberna al governo nazionale. A Paluzza si inaugura il centro di accoglienza in memoria di Don Pier Luigi Di Piazza, fondatore del centro Balducci, potrà ospitare 25 persone. Hanno messo a segno almeno 18 furti nelle case nelle ultime due settimane tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tre albanesi trasfertisti sono stati arrestati su richiesta della procura di Pordenone poco prima che riuscissero a imbarcarsi su un volo per l'Albania con il bottino. In provincia di Udine scompare una persona ogni 4 giorni e solo il 42% di loro viene ritrovato. Il prefetto ha messo a punto un nuovo protocollo per fronteggiare il problema anche grazie alle nuove tecnologie. Costo degli ski pass invariato, innevamento programmato sul 100% del demanio sciabile. Presentata la stagione invernale che si aprirà l'8 dicembre nei poli sciistici della regione. A 6 anni di distanza dalla loro abolizione, la regione si prepara a reintrodurre le province. Confindustria Alto Adriatico apre al nucleare in attesa di passare a centrali per la produzione di energia pulita realizzabili in regione. Se ne è parlato in un confronto a Monfalcone, dove la sindaca Cisinta ha sottolineato mai in questo comune. Sport nelle serie C di calcio, e Pordenone sfida in casa in Novara, la Triestina in trasferta a Vicenza. Pallanuoto A1 maschile, Trieste affronta Lanzio. Nel campionato femminile le Orchette sfidano il Como. Buongiorno da Maria Spezzi e Francesca Vigori. In apertura il tempo, il cielo è nuvoloso su quasi tutta la regione, più sereno sui monti. Le temperature a Trieste 9 gradi, a Gorizia 7, a Udine Pordenone 5, a Tolmezzo 4 gradi, a Forni di Sopra 3, a Piancavallo meno 1, a Tarvisio meno 2, a Sappada meno 3. Sul monte Lussari e sul monte Zoncolan 0 gradi, a Lignano 11 gradi, a Grado 6. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: cielo in genere variabile con maggiore probabilità di sole al mattino, soffierà bora sostenuta sulla costa, a tratti forte in serata a Trieste, moderata in pianura. Non è esclusa qualche debole pioggia sparsa dal pomeriggio a est. Anche se si registra un aumento degli occupati, rimane la preoccupazione dei precari. La CGIL ha raccolto le loro istanze e chiede un fondo economico dedicato. Cresce l'occupazione in Friuli Venezia Giulia e crescono i contratti a tempo indeterminato, ma resta il fatto che quasi la metà dei nuovi assunti sono precari. A puntualizzarlo è la NIDIL CGIL, sigla che sta per Nuova Identità del Lavoro e che raccoglie le istanze di tanti lavoratori che si sentono costantemente a rischio di perdere il posto, e senza contare sui paracaduti previsti per i dipendenti. Oltre ai 70 di flex già a casa, sono tanti i lavoratori somministrati, assunti cioè dalle agenzie interinali, a rischio quest'anno. 80 nei palazzi della regione, 20 in Varsila, 10 nell'azienda tessile Tirso. Il sindacato chiede che venga istituito un fondo economico regionale dedicato, e non solo. Nicola Dalmagro, segretario provinciale e regionale del NIDIL CGIL. Per quanto riguarda l'industria di Trieste, proprio perché riteniamo che ci sia da creare dei tavoli a livello regionale per diminuire l'utilizzo di contratti precari, mi riferisco soprattutto ai contratti di somministrazione. Per dare dignità ai tanti precari del settore ristorazione e turismo, il sindacato propone degli incentivi per servizi e esercenti pubblici, che sia ridotto ad esempio il costo del deor, però a fronte dell'utilizzo di contratti stabili che abbiano una durata che non sia inferiore ai 6 mesi e che soprattutto preveda appunto un equo compenso e un carico di lavoro giusto. Contro il caro vita, il segretario UIL del Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn, suggerisce al nuovo governo nazionale di inserire nella legge di bilancio di fine anno il detassamento delle tredicesime, così da dare sollievo immediato a pensionati e lavoratori. Parallelamente propone di detassare gli aumenti da contrattazione collettiva e di alzare al 33% la tassa sugli extra profitti che stanno facendo le aziende del comparto energetico. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Nulla di fatto dall'incontro tra la società di trasporto pubblico locale Arriva di Udine, che fa parte di TPL FVG, e i rappresentanti sindacali degli autisti di bus e corriere. FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti e FAESA CISAL denunciano una cronica carenza di personale, carenza mai sanata, dicono, nonostante le promesse aziendali. E questo obbliga il personale di servizio, si legge nella nota, a turni pesanti e al continuo ricorso agli straordinari, con richiesta di riduzione o spostamento delle ferie. Ha destato sconcerto, dicono i rappresentanti dei lavoratori, anche la notizia del dimezzamento del premio di risultato 2023. Nei prossimi giorni i sindacati inoltreranno una richiesta di incontro al prefetto di Udine prima di decidere le date dello sciopero. A Trieste invece si è già arrivati alla rottura dopo il fallimento anche del secondo incontro tra sindacati e Trieste Trasporti. Lo sciopero è confermato, si sta solo valutando la data, sicuramente entro il 17 dicembre. Emergenza migranti all'addiaccio a Gorizia. Nelle ultime notti sono stati decine e decine quelli che hanno dormito all'aperto, alla Casa Rossa, nella stazione ferroviaria e di nuovo, come nel 2017, nella galleria pedonale Bombi. A lanciare l'allarme questa volta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che chiede l'intervento urgente del governo. Alcuni giorni fa presso la stazione ferroviaria abbiamo avuto un numero importante di richiedenti asilo che hanno pernottato presso la stazione. Il problema è stato risolto, perciò nell'ultima notte ciò non è più accaduto. Abbiamo diverse persone che stanno stazionando e pernottando in piazzale Casarossa e diversi nella scorsa notte presso la galleria Bombi. Abbiamo chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, hanno provveduto perciò a far evacuare all'alba queste persone. Ne abbiamo parlato stamani con il prefetto di Gorizia Ricciardi, abbiamo concordato di trovarci insieme al comitato, perciò con le forze dell'ordine, lunedì prossimo alle 10.30 presso la prefettura per condividere le informazioni e per condividere anche le misure da adottare. Ciò che è certo è che non tollereremo il ripetersi, come dicevo, di quanto accaduto nel 2017, cioè non tollereremo nuovamente una galleria Bombi piena di richiedenti asilo. Ahi noi, sappiamo che c'è una narrazione nazionale secondo la quale nel Friuli Venezia Giulia vi sono condizioni di ospitalità eccellenti e peraltro con una commissione di manica larga a Trieste. Ciò in realtà non è vero, non c'è una commissione con manica larga a Trieste e il Friuli Venezia Giulia è saturo. Tanti da Trieste, trovando questa saturazione, si stanno trasferendo a Gorizia. Gorizia è satura, non ha più la possibilità di ospitare. Ergo, c'è naturalmente il problema, naturalmente deve essere preso in carico dal governo nazionale. Verrà inaugurato alle 15 il centro di accoglienza intitolato a Don Pierluigi di Piazza a Paluzza, a pochi chilometri di distanza da Tualis, paese natale del fondatore del centro Balducci di Zugliano, scomparso a maggio di quest'anno. Il fratello di Don di Piazza, Vito, ci ha spiegato come è nato questo nuovo progetto di accoglienza e fraternità nello spirito di solidarietà verso gli ultimi e i più fragili che ha animato tutta l'opera di Don di Piazza. C'è stata una donazione a Paluzza in Carnia di un edificio da parte dei Giuseppini del Murialdo, che sono frati che fanno accoglienza in tutte le parti del mondo. Hanno fatto una donazione dell'abitato a Renato Garibaldi, che fa accoglienza da molti anni. Lui ha completato la ristrutturazione dell'ambiente, che attualmente dà una disponibilità dai 18 ai 20 posti di accoglienza per le persone che sono in difficoltà, non solo migranti. Chiaramente è un primo centro di accoglienza così strutturato, nasce qui in Carnia come costola del centro Balducci. Il centro di Paluzza verrà ulteriormente ampliato. E questa è un'altra eredità che ci lascia Don di Piazza. Esatto. Mio fratello Pierluigi ha seminato tanto nella sua vita, questo in vari settori, ovviamente quello della fede, della spiritualità. delle relazioni umane a cui lui teneva tanto, ha incontrato tantissima gente, che poi è la gente riconoscente che va da quando lui è nel cimitero di Tualis, va sulla sua tomba a rincontrarsi con lui in una maniera nuova per ricevere ancora incoraggiamento, fiducia, spiritualità. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: furti in almeno 18 abitazioni tra Veneto e Friuli, 3 arrestati. Si tratta di 3 albanesi di 27, 30 e 35 anni, sottoposti a provvedimento di fermo da parte della procura di Pordenone, in quanto indiziati di furto aggravato. L'indagine è stata svolta dai carabinieri della compagnia di Porto Gruaro. Ai 3 vengono contestati 18 episodi di furto consumato, tentato in abitazione, avvenuti fra il 31 ottobre e il 15 novembre nei comuni di Porto Gruaro, Concordia Sagittaria, San Michele a Tagliamento, Azzano Decimo, Chionse, Musile di Piave. I carabinieri hanno trovato in loro possesso denaro contante e oggetti preziosi che sono stati già riconosciuti dai derubati e sussistono anche altri elementi di prova. Le indagini hanno permesso di capire, informa una nota del procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, che i 3 fermati non avevano alcun radicamento nel territorio italiano, ma vi soggiornavano provenendo dall'estero. I 3 erano sul punto di imbarcarsi su un aereo per far ritorno in Albania, portando con loro il bottino. Per questo si è proceduto con il fermo immediato. In provincia di Udine scompare nel nulla una persona ogni 4 giorni. Nel 2021 sono state 73, nel 2022 da gennaio a novembre 79. Si tratta per metà di minorenni stranieri non accompagnati, per il 22% di altri minorenni, per il 26% di maggiorenni, mentre il 6% del totale ha più di 65 anni. Il fenomeno delle denunce di scomparsa è in crescita. La ricomparsa di queste persone avviene nel 42% dei casi. Alla luce di questi dati, il prefetto Massimo Marchesiello ha approvato il nuovo piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il documento è inteso a fronteggiare il fenomeno in maniera sempre più sinergica tra i vari soggetti coinvolti e sempre più al passo con le nuove tecnologie e risorse messe in campo. La stagione invernale della regione prenderà il via il prossimo 8 dicembre. Un dato importante per sciatori e turisti è legato al mantenimento dei prezzi degli ski pass giornalieri, che resteranno invariati. Siamo l'unica regione dell'intero arco alpino che non aumenterà i prezzi e questo gioverà sicuramente in termini di concorrenza e attrattività, ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Bini. Una buona notizia in un periodo in cui questo tipo di messaggi scarseggiano. Per la stagione 2022-2023 nei 6 poli sciistici della regione i prezzi degli ski pass rimarranno allineati a quelli del 2021-2022 e questo renderà le nostre località montane più attrattive rispetto agli altri poli dell'arco alpino. Costerà 39,50 28 euro in bassa stagione lo ski pass giornaliero. Le altre buone notizie sono che l'innevamento sarà programmato sul 100% del demanio sciabile, impianti sempre aperti e 10 giornate dedicate allo sci alpinismo a Sella Nevea. Unica rinuncia per gli amanti dello sci è che dovranno fare a meno delle discese in notturna sulla di Prampero e Assauris. Questo, in sintesi, il programma della stagione invernale presentata dall'assessore al turismo con i vertici di Promoturismo FVG. Sergio Emilio Bini, assessore attività produttive e turismo. Per quanto riguarda i prezzi dell'energia, è vero che c'è stato un aumento, ma noi come Promoturismo abbiamo i contratti bloccati fino al 30, con i vecchi prezzi fino alla fine di quest'anno, quindi ci prevede un contenimento significativo del costo. Per quanto riguarda gli alberghi, insomma, noi abbiamo dei ritorni per ora parziali, ci mancherebbe altro, però abbastanza positivi, quindi io dico partiamo e poi vedremo. Una stagione non semplice, come è stato sottolineato nel corso dell'incontro che aprirà l'8 dicembre e si concluderà il 21 marzo, ad eccezione di Sella Nevea, che rimarrà aperta sino a Pasquetta il 10 aprile. C'è poi un percorso di rinnovamento importante su piste, strutture dei ristori, mezzi e cartellonistica, riattivato l'accordo transfrontaliero tra Bovez e Sella Nevea. Una stagione che parte con i migliori auspici e che vede un fitto calendario di eventi agonistici, dagli Special Olympics a Playoff 2023. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. approvato in via definitiva il disegno di legge per reintrodurre il livello di governo intermedio nello Stato regionale. Il testo andrà in aula a gennaio e prevede le modifiche statutarie necessarie per riportare le province in Friuli Venezia Giulia. A 6 anni di distanza dalla loro abolizione, la nostra regione si prepara a reintrodurre le province. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, presentando il disegno di legge che verrà discusso dal Consiglio regionale il prossimo gennaio. Le rinate province saranno enti a elezione diretta e assumeranno funzioni amministrative proprie, comprese quelle attualmente esercitate dagli enti di decentramento regionale o EDR. La proposta, dopo essere stata approvata dalla Giunta, ha ricevuto anche l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali con solo 2 astensioni, ha ricordato Roberti. Si tratta di un'intesa, ha aggiunto, che esprime la richiesta del territorio di un ente intermedio capace di coordinare lavoro e funzioni ad un livello più basso rispetto a quello della Regione. La Giunta regionale ha poi approvato, su proposta dell'assessore alle attività produttive Bini, lo stanziamento di ristori economici contro il caro energia a favore delle società che gestiscono piscine e per i 3 poli termali del Friuli Venezia Giulia. Le prime potranno usufruire di contributi pari a 40.000 euro, mentre per le terme di Monfalcone, Grado e Arta Terme il contributo sarà di 150.000 euro. Un'ulteriore delibera riguarda infine un piano di formazione di oltre 7.500 dipendenti del sistema sanitario regionale sulle infezioni ospedaliere. Il provvedimento, adottato su proposta del vicepresidente e assessore alla salute Riccardi, mette a disposizione 2 milioni di euro per 4 anni, dal 2023 al 2026. I primi 4.000 dipendenti, ha detto Riccardi, saranno formati a inizio 2025 e tra gli obiettivi del programma di formazione ci saranno quelli di favorire l'acquisizione di abilità pratiche finalizzate a sanificare correttamente le superfici, i dispositivi medici e gli ambienti e a smaltire correttamente i rifiuti potenzialmente infetti. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Il tema della transizione ecologica è stato oggetto di un confronto a Monfalcone organizzato dalla CISL, Energia Pulita, che possa essere realizzata sul territorio. Confindustria Alto Adriatico apre anche al nucleare, ma la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cesint, si mette di traverso. Sentiamo. Di fronte alle sfide della transizione energetica bisogna farsi trovare preparati. È questo lo spirito del convegno organizzato dalla CISL a Monfalcone. L'obiettivo? Riflettere sulle possibilità di una nuova energia che sia rinnovabile e sostenibile e che possa essere applicata nei territori. La posizione, ha dichiarato Michele Anastasio della CISL, è della massima apertura. Le fonti sono numerose, vanno dal solare all'eolico e nel mix di energia, spiega Massimiliano Ciarrocchi di Confindustria Alto Adriatico, non si può escludere il nucleare. Questo non significa affatto, spiega la sindaca di Monfalcone Anna Cisinte, a scanso di equivoci, che si pensi a una centrale nucleare a Monfalcone. Intanto rassicuro tutta la comunità monfalconese. Il tema non è all'ordine del giorno. Penso che Monfalcone abbia già dato abbondantemente in questi lunghi anni dal punto di vista della presenza, tra virgolette, importante di situazioni complesse da gestire anche dal punto di vista dell'ambiente e della salute. Al convegno abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di formazione, importantissima, abbiamo parlato di transizione energetica da questi punti di vista, l'esigenza che in una città come questa si vada verso l'elettrificazione della banchina, del porto, ecco, questi sono i temi, ecco, quindi mi sento di rassicurare tutti perché il sindaco, come ha dimostrato in questi 6 anni, tiene la barra dritta. Il nucleare, ha ribadito in giornata Legambiente, non è la soluzione. Si tratta di una tecnologia messa fuori gioco dal mercato stesso e che non serve percorrere. La sfida per il futuro, spiegano, è quella di una nuova energia pulita e sostenibile. Monfalcone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Eli Friuli passa in mani spagnole. Il gruppo Elians, operatore attivo nel settore dei servizi elicotteristici, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di Eli Friuli S.p.A., affiancando i 2 soci finanziari che rimangono nella compagine con una quota di minoranza. A settembre 2021 i soci finanziari, il Fondo Sviluppo PMI e Friulia, avevano acquisito il 26% del capitale. Fondata da Luigi Coloatto nel 1971, con sede a Ronchi dei Legionari, Eli Friulia è l'operatore elicotteristico più longevo in Italia. La sua attività comprende un'ampia gamma di servizi elicotteristici, i cui principali sono l'elisoccorso e l'antincendio boschivo, che coprono complessivamente circa la metà dei ricavi totali della società. La società dispone di 3 basi operative permanenti, 2 in Friuli Venezia Giulia e 1 in Veneto. Una flotta composta da 17 elicotteri e 3 aerei e un organico che comprende circa 65 addetti tra piloti, tecnici, ingegneri e personale amministrativo. Da alcuni anni la società è anche presente in Croazia attraverso la controllata Eli Adriatic. Al Polo Tecnologico di Pordenone si è tenuto un incontro fra studenti e aziende inteso a orientare i percorsi di studio verso rapidi sbocchi professionali. 3 aziende e 70 studenti hanno partecipato alle visite in azienda organizzate da Confindustria Alto Adriatico a Monfalcone, Pordenone e Trieste nella 13ª giornata nazionale delle piccole e medie imprese. Al Polo Tecnologico di Pordenone, i ragazzi dell'istituto paritario Naonis Studium hanno potuto conoscere da vicino un'azienda di successo specializzata nello sviluppo di software. Michele D'Accolo è rappresentante piccola industria per Confindustria Alto Adriatico. Fare cultura di impresa è questo, aprire ai nostri ragazzi le porte perché possano orientarsi al meglio nei loro ultimi anni di studio dopo le scuole superiori, per esempio, intraprendere percorsi vicini a quelli che li fanno trovare occupazione qui nel nostro territorio. Samuele Rossi, studente. Mi stimola a poter fare un'impresa mia, che è quello che ho sempre voluto fare, in un altro ambito sicuramente, perché non è questo qui, però porta comunque consigli sicuramente ascoltare professionisti del genere. Paolo Santini, imprenditore. Un consiglio che ha dato per il futuro di questi ragazzi? Io ho dato un consiglio di confrontarsi col territorio, di vedere se hanno idee dove possono portarle avanti e svilupparle, sia come dipendenti che come imprenditori, perché lo spazio c'è. Ho insegnato una cosa importante, di non regalare le idee, ovvero sia una banalità che un documento amministrativo che si fa, che si chiama NDA, nel momento in cui uno scambia informazioni delicate, fai in modo di tutelare la tua idea, quindi scrivile via mail dopo aver fatto un documento. Questo dove succede che quell'azienda è non sana ma furbacchiona e ti ruba l'idea, in realtà non può farlo perché ti sei tutelato. Questa è una cosa molto importante perché nella storia è successo tantissime volte che giovani che avevano buone cose si sono visti rubare l'idea da quelli che devono essere invece i loro mecenati. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, calcio, Serie C, il Pordenone sfida il Novara, terzo in classifica, allo stadio di Lignano alle 14.30. I ramarri hanno 26 punti in classifica contro i 23 dei piemontesi, in mezzo ai Renate a quota 24. Sempre Serie C, la Triestina affronterà in trasferta il Vicenza alle 17.30. Pallanuoto, nella 5ª giornata di andata del campionato di Serie A1 maschile, la squadra labardata affronta in trasferta l'Anzio Waterpolis. Si gioca nello stadio del Nuoto con inizio alle 16.30 e nella 4ª giornata di andata del campionato di Serie A1 femminile le orchette alabardate sfideranno il Como Nuoto. Si gioca a Busto Arsizio con inizio alle 19. Il Museo Revoltella di Trieste ospita da oggi fino al 10 aprile una mostra dedicata ai macchiaioli, pittori italiani rivoluzionari sia per modalità espressive che per impegno politico, che introdussero una cesura netta nell'estetica pittorica. 80 opere raccolte sotto il titolo I macchiaioli, l'avventura dell'arte moderna, una mostra prodotta da Artemisia curata dallo storico dell'arte italiana Tiziano Panconi. È stata realizzata dall'artista Calogero Condello la statua di Carlos Gorlon, che sarà presentata ai cittadini di Udine. Condello è il vincitore del concorso ideato promosso dall'amministrazione per ricordare la figura e l'opera del grande scrittore friulano. Appuntamento in Piazza Marconi alle 11.30. Sarà Elisa la protagonista della festa dell'albero organizzata da Lega Ambiente a Staranzano. La cantante ha voluto essere presente nella sua Staranzano per poter testimoniare il proprio impegno per l'ambiente. Durante il suo ultimo tour, Back to the Future, Elisa ha infatti promosso una raccolta fondi finalizzata alla messa a dimora di alberi in tutta Italia. Per la festa dell'albero, dalle 10.45, i volontari di Lega Ambiente pianteranno 30 alberi tra le specie autoctone della pianura isontina nelle aree verdi in via Brigata Fratelli Fontanot. Il corso di laurea in viticoltura ed enologia dell'Università di Udine compie 30 anni, un anniversario che sarà celebrato alle 9.30 al Polo Economico e Giuridico di via Tomadini, con un incontro in cui si parlerà degli aspetti didattici e delle prospettive per il futuro. Ne abbiamo parlato con Lucilla Iacomin, coordinatrice del corso di laurea. Il corso di laurea di viticoltura e enologia in questi 30 anni ha fatto molta strada, è uno dei primi corsi nati in Italia e ha un bilancio complessivo di circa 1190 enologi laureati in laurea triennale e 292 dottori magistrali. il numero più alto di laureati in viticoltura e enologia di tutta Italia. Che cosa si studia per diventare enologi? Che tipo di formazione è necessaria? Il corso di laurea in viticoltura e enologia prepara l'enologo in tutte le sue funzioni, quindi dalla capacità di seguire la produzione dell'uva, quindi tutto ciò che compete la parte viticola, fino poi alla gestione di cantina, ma non solo nei processi, anche nella gestione, negli aspetti di marketing, di economia, di gestione aziendale, quindi una formazione a tutto tondo per gestire una filiera produttiva dall'inizio alla fine, alla vendita del prodotto. Quali sono i progetti per il futuro? L'intenzione è quella di guardare al territorio con lo spirito con cui è nata questa università. Dobbiamo ricordare che è l'unica università italiana nata per volontà popolare, pertanto il legame con il territorio è ancora ben saldo e sappiamo bene che la vitivinicoltura nel nostro territorio è una filiera molto importante. Nascerà anche un master che vuole raggiungere e approfondire la formazione per chi è già nel mondo del lavoro, che è già uscito dall'università e vuole approfondire alcuni aspetti che sono diventati molto importanti per l'enologia del futuro. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il natisone d'autunno, ripuliamo il natisone dai rifiuti prima che arrivi al mare. È l'evento inteso a valorizzare uno dei principali corsi d'acqua della regione. L'iniziativa è abbinata a un incontro dedicato a fare il bilancio dell'attività svolta per capire quali e quanti rifiuti deturpino il territorio e quali ulteriori attività potranno essere messe in campo. L'appuntamento è a Manzano, con ritrovo al parcheggio del cimitero alle 9:20. Gli erbari storici come quello di Tomasini, botanico ottocentesco, e le collezioni didattiche di muschi, funghi e piante medicamentose che raramente sono accessibili al pubblico oggi saranno visitabili al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. Ingresso con visita speciale compresa nel normale biglietto dalle 11 alle 13:30. Sono le 7:45, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani che oggi trovate in edicola. Il Messaggero apre con la scadenza del 25 novembre per fare richiesta del superbonus edilizio al 110%. E in fotonotizia, da conto delle tariffe invariate degli ski pass in regione di cui vi abbiamo appena parlato. In taglio alto il sostegno della regione alla campagna Coldiretti contro il cibo sintetico. In un articolo poi in cui si riassumono anche le altre iniziative della Giunta Fedriga, dal ritorno all'ex provincia ai ristori per terme e piscine. Capocronaca dell'edizione di Udine, l'acquisizione da parte del comune dell'ex cinema Odeon. Serviranno 2 milioni per sistemarlo. Il progetto prevede l'allestimento di uno spazio culturale per eventi teatrali e musicali. Più avanti la manifestazione degli studenti contro il caro affitti a fronte di di 300 euro richieste al mese per l'affitto di una stanza. Capocronaca dell'edizione di Pordenone, i 100 milioni di euro stanziati per le opere pubbliche dei prossimi 4 anni, tra cui la sistemazione delle ex casermette. In apertura del piccolo edizione di Trieste, l'avvertenza degli autisti degli autobus, Trieste Trasporti, conducenti verso lo sciopero, la protesta dei lavoratori, situazione insostenibile, compensi troppo bassi e ritmi di lavoro intollerabili. Nella cronaca anche il processo in corte d'assise all'ex anestesista del 118, Vincenzo Campanile. Morti dopo l'iniezione, il titolo, le parti civili chiedono danni per oltre 2 milioni. Nell'economia l'acquisizione di Eli Friulia da parte degli spagnoli di Allianz. Nell'apertura dell'edizione di Gorizia e Monfalcone, l'ultimatum lanciato alla Varsila, motori fin cantieri fermi a Bagnoli, imbarco lunedì o via alle penali, maxi sanzioni per ogni settimana di ritardo nella consegna. I finlandesi spingono per trattare. Il capocronaca del capoluogo isontino riporta la lettera del sindaco al ministro della giustizia Nordio, personale da rinforzare in tribunale, procura, buchi negli organici sconcertanti. La pagina di Monfalcone riporta la soluzione del 34enne napoletano accusato di aver ceduto la dose che lo ha ucciso all'operaio monfalconese Michele Agosta. Le due edizioni del Gazzettino condividono la fotonotizia sulle tariffe degli ski pass, oltre a notizie di giudiziaria dal processo a carico dell'ex tronista che ha intascato denaro da molti acquirenti per mobili poi mai consegnati, all'arresto del 35enne che aggrediva passanti a calci e pugni. L'edizione di Udine apre sul protocollo per gli scomparsi, mentre l'apertura dell'edizione di Pordenone è per l'incarico dato in ospedale a un libero professionista nel reparto di medicina interna, tra i più in sofferenza per le norme Covid, dopo l'ennesimo concorso andato a vuoto. Il contratto accordato è di 6 mesi. Spazio poi al parere dell'infettivologo Venturini, che per sopperire alla carenza di organico suggerisce di ridurre le quarantene e gli isolamenti preventivi, in quanto a suo avviso siamo in una fase di convivenza endemica con il coronavirus. Infine si informa sullo stato di agitazione dei lavoratori delle acciaierie venete di Buia, dovuto alla mancata volontà aziendale di anticipare il valore economico della cassa integrazione ordinaria. Una conferenza organizzata dal Centro Info Handicap Friuli Venezia Giulia affronterà il tema delle demenze giovanili, quelle forme di decadimento cognitivo impattante sulla vita quotidiana che esordiscono prima dei 65 anni. L'incontro si terrà alle 8:30, dalle 8:30 alle 13 nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone. Rivivere attraverso i sensi il territorio, il Carso e le sue peculiarità è l'intento delle visite guidate speciali multisensoriali aperte anche alle persone con disturbi neurocognitivi alla mostra Il mio Carso, allestita al Museo d'Arte Moderna Ugo Carà di Muggia, inizio alle 11. Il centro socio-occupazionale della cooperativa sociale Piccolo Principe di Casarsa della Delizia, uno dei primi centri semiresidenziali finalizzati all'inclusione di persone con disabilità del Friuli Venezia Giulia, compie 25 anni di attività. Per la ricorrenza organizza il convegno La vita della persona con disabilità, in programma alle 9, al ridotto del Teatro Pasolini. La sezione triestina dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, in occasione del 65esimo anno dalla nascita, organizza il convegno Disabilità e Progetto di Vita. Si parlerà della situazione attuale e della novità della legge 173 sugli interventi a favore delle persone con disabilità. Appuntamento a Trieste, all'albergo Savoia Excelsior, alle 8:30. Ora alcuni degli appuntamenti di concerti e spettacoli numerosissimi in regione. Stasera le atmosfere musicali dei maestri delle regioni baltiche sono al centro del concerto del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone. Protagonista il coro della Municipalità di Vilnius nella chiesa concattedrale di San Marco alle 20:45. La compagnia di danza Malandan Ballet by Ritz interpreta due classici che hanno segnato la storia della danza, Lucia di Fuoco e La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, a Udine al Teatro Nuovo alle 20:45. Il violoncellista Ettore Pagano, 19enne, protagonista del concertismo internazionale diretto dal maestro Frédéric Chaslen, eseguirà il concerto per violoncello e orchestra numero 1 in mi bemolle maggiore di Shostakovich e la sinfonia in re minore di Franck al Teatro Verdi di Trieste alle 18. Il nuovo spettacolo di Andrea Appi e Ramiro Besa in Arte i Papu, Uzzi o qualcosa di simile a un, andrà in scena all'auditorium comunale di Zoppola alle 20:45. Arriva al teatro La Contrada di Trieste l'ultimo monologo di Alessandro Bergonzoni, Trascendi e sali. Con i suoi giochi di parole Bergonzoni riesce a far sorridere sugli argomenti più seri come femminicidio, razzismo e catombe di migranti in mare alle 20:45. Geppi Cucciari, la protagonista di Perfetta, l'ultimo monologo scritto da Mattia Torre, che andrà in scena alle 20:45 al Teatro Comunale di Monfalcone. Si apre la stagione del comunale Marcello Mascherini, in programma alle 21 lo spettacolo Stelle di Broadway, che porta lo spettatore sui più prestigiosi palcoscenici del distretto dei teatri di New York. Lo spettacolo Harold, un parole, infinite possibilità, è in scena a Trieste, nella sala Luttazzi del magazzino 26 di Porto Vecchio alle 20:30. L'imitatore Dario Ballantini arriva nel circuito ERT con il suo nuovo spettacolo che si intitola Lo spettacolo di Ballantini al Teatro Clabasse di Stedegliano alle 20:45. Mezzo tono per un obo e mezzo, nato dall'idea dell'oboista sloveno Sarz, sarà in scena a Trieste alla Basilica di San Silvestro alle 18. Secondo appuntamento con i vincitori del Diapason d'Oro 2022, protagonisti giovani Samuel Enore Presutti e Anna Stella Gibboni. Presutti presenterà un raro programma dedicato al duo fagotto e pianoforte con musiche di Pierné e Vivaldi alle 20:30 al Circolo Giuseppe Verdi di Fontana Fredda. Il duo formato da Manuel Tomadin all'organo e Diego Calla alla tromba si esibirà a Brugnera nella chiesa di San Michele Arcangelo alle 20:30. L'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini di Trieste, protagonista dell'appuntamento con l'International Music Meeting alle 20:45 al Teatro Zancanaro di Sacile. La rappresentazione teatrale Guarnerius con Angelo Floramo e gli attori del Teatro Incerto di Udine sarà sul palco del Kulturni Dom di Gorizia alle 20:30. Il nostro giornale si chiude qui da Maria Spezia e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto, Corrado Spunton e Andrea Fontanot che hanno curato la parte tecnica, Samantha Gonni in redazione. Grazie per la cortese attenzione e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.